Giallo e Nero di Daniele Biacchessi. Milano, 17 febbraio 2003. Osama Mustafa Hassan, detto Abu Omar, è l'imam di Milano. Tutti i giorni compie lo stesso percorso dalla sua abitazione alla moschea. Abu Omar è tranquillo. Cammina con passo deciso sul marciapiede di via Guerzoni a Milano. Intorno a lui non nota nulla di sospetto, qualcosa che possa attirare attenzione. Un particolare, una mossa strana da parte di qualcuno. Niente. Milano, via Guerzoni. La scena ora si sposta di pochi metri. Agenti della CIA, il servizio segreto americano, in trasferta in Italia e del SISMI, lo stanno seguendo da alcuni minuti. Gli uomini dei servizi sono nascosti dentro quattro auto noleggiate a Milano. Intorno alle 12.25 un furgone bianco si ferma in via Guerzoni, si accosta al marciapiede. La scena è fulminea. Due agenti caricano a forza Abu Omar sulla vettura e lo trasportano dopo 5 ore di tragitto nella base americana di Aviano. Dopo un sommario interrogatorio, l'imam viene caricato su un aereo con l'insegna statunitensi e successivamente, con un secondo volo, ad Alessandria d'Egitto. Le tracce di Abu Omar si perdono dunque in via Guerzoni a Milano, durante il tragitto dalla sua abitazione in via Conte Verde fino alla moschea di Viale Jenner. Nasr Osama Mustafa Hassan, detto Abu Omar, nasce il 18 marzo 1963 ad Alessandria, in Egitto. Militante dell'organizzazione estremistica egiziana Jamaat al-Islamia. Nel 1998 giunge in Italia ottenendo poi ufficialmente lo status di rifugiato politico. Dal 23 luglio 2000 si trasferisce a Milano, dove risiede in via Conte Verde numero 18, appartamento nella disponibilità dell'ICI e già in uso all'estremista egiziano Essayed Abdelkader Mahmoud, morto in Afghanistan sotto bombardamenti americani. Abu Omar ha ricoperto l'incarico di imam nella moschea milanese di via 40-54 a Milano. 20 febbraio 2003, Nabila, moglie di Abu Omar, presenta alla polizia una regolare denuncia di scomparsa del marito. Da quel momento le indagini dei magistrati milanesi subiscono una forte accelerazione. 26 febbraio 2003. Gli inquirenti acquisiscono la testimonianza di una donna egiziana che riferisce di aver assistito 9 giorni prima, intorno alle 12.25, in via Guerzoni, al sequestro di Abu Omar da parte di alcuni uomini dall'aspetto occidentale. In particolare precisa che uno di questi era intento a parlare al telefono cellulare e che gli stessi si erano allontanati a bordo di un furgone di colore chiaro. 3 marzo 2003. Le autorità statunitensi emettono un dispaccio trasmesso alla Direzione Centrale Polizia di Prevenzione in cui affermano che Abu Omar si troverebbe nei Balcani. 20 marzo 2004. Intercettazione di una telefonata tra Abu Omar e sua moglie Nabila, durante la quale l'uomo, localizzato ad Alessandria d'Egitto, racconta di essere stato liberato dalle autorità egiziane il giorno prima. 7 maggio 2004. Intercettazione di una telefonata tra Abu Omar e un cittadino egiziano in Italia, al quale spiega in modo dettagliato le circostanze del sequestro. Al rapimento di Abu Omar e ai voli organizzati dalla CIA si occupano non soltanto gli inquirenti milanesi. Claudio Fava è il presidente della Commissione del Parlamento Europeo che indaga sulle operazioni coperte all'estero degli agenti americani. Lui si è recato negli Stati Uniti per ottenere materiale e verificare l'operato degli agenti della CIA nella lotta al terrorismo in Italia. Lo ha intervistato Cristina Carpinelli. Siamo stati accolti con molta cortesia, ma anche con molta franchezza dall'amministrazione Bush e dal Dipartimento di Stato. La loro idea, che più volte ribadita anche dal Condoleezza Rice, è che gli Stati Uniti si ritengono in guerra. Ritengono che questo conflitto sfugga ad una lettura tradizionale dei conflitti, così come sono immaginati dal diritto di guerra o dalle convenzioni internazionali, e si ritiene quindi nella necessità di porsi anche oltre la legislazione internazionale vigente, anche rispetto per esempio al Trattato delle Nazioni Unite contro la tortura, che vieta, come sappiamo, che possa essere estradato e trasferito un detenuto in un paese in cui c'è il rischio che possa essere torturato. L'amministrazione americana dice che tutto questo vale soltanto per i detenuti trasferiti agli Stati Uniti, per cui le extraordinary renditions, che sono modo per catturare, arrestare e trasferire da un paese terzo ad un altro paese terzo un presunto terrorista, rientrerebbero nella legalità e nella necessità. Su questo naturalmente si scontrano sensibilità giuridiche e politiche assai diverse, perché noi continuiamo a ritenere che la lotta al terrorismo vada fatta con grande determinazione, ma senza mai cedere alla tutela, alla garanzia anche giuridica dei diritti fondamentali dei cittadini e degli esseri umani. Stefano Silvestri è un esperto di geopolitica, presiede l'Istituto Affari Internazionali e collaboratore del Sole 24 Ore di Radio 24. Spiega così i confini entro i quali si muovono operazioni coperte contro il terrorismo internazionale. Legalità o illegalità? Beh, è una storia abbastanza confusa e abbastanza triste. Diciamo che noi, l'Europa in generale, non al contrario degli Stati Uniti, non si sente in guerra. Questa naturalmente è una differenza fondamentale con gli Stati Uniti. Ora, poteva essere per un certo periodo, subito dopo l'11 settembre, che fossero necessarie delle azioni speciali, e a volte avviene che gli stati violino la legge, però deve essere in genere una eccezione per casi straordinari. Gli Stati Uniti vorrebbero trasformarla quasi in l'hanno sostanzialmente fatto in una situazione pressoché normale e abituale. Questo diventa largamente inaccettabile. Io credo che anche negli Stati Uniti ci sia una forte corrente di pensiero, e si è manifestata più volte, che è contraria a questo tipo di eccezionalità. Per cui diciamo che l'Europa in questo momento è piuttosto dalla parte degli oppositori attuali americani, ed è in contrasto su questo aspetto con l'amministrazione Bush. È il 5 luglio 2006, la svolta. Vengono arrestati il direttore delle operazioni del SISMI, Marco Mancini, il numero 2 del nostro controspionaggio diretto da Nicola Pollari, e il generale Gustavo Pignero. Le accuse vanno dal concorso in sequestro di persona aggravato all'abuso di potere e all'intercettazione. 4 ordinanze di custodia cautelare interessano alcuni cittadini americani: Ralph Russo Mando, Sabrina De Souza, Jeff Castelli, appartenenti alla CIA, e di Joseph Romano, responsabile della sicurezza ad Aviano. Indagati anche altri funzionari del SISMI: Pio Pompa, a cui è intestato un attico in Via Nazionale, una vera e propria centrale dei servizi, e Luciano Segno. Tra poco, dopo la pausa, torna il racconto del giallo e nero sul rapimento di Abu Omar. Giallo e nero, di Daniele Biacchessi. Carlo Bonini, giornalista di Repubblica, autore insieme al collega Giuseppe D'Avanzo delle prime inchieste sul rapimento dell'imam di Milano Abu Omar. Commenta così gli arresti di tutti gli uomini posti al vertice del SISMI. L'arresto ha un'importanza non solo per la qualità ovviamente di chi è stato arrestato, ma per ciò che in questo momento consente di dire con sicurezza a questo punto, cioè che i servizi segreti italiani hanno collaborato nel sequestro dell'imam egiziano. Una cosa può essere detta sicuramente adesso con assoluta certezza: nell'ultimo anno il governo italiano ha mentito al paese, sostenendo che le autorità italiane non avevano avuto alcun ruolo né diretto né indiretto nel sequestro di Abu Omar. È evidentemente una circostanza molto grave che interpella le responsabilità non solo tecniche ovviamente del SISMI, ma a questo punto le responsabilità politiche del governo uscente. Il governo scarica la responsabilità sugli individui, non sull'istituzione SISMI. Il sottosegretario alla difesa dell'esecutivo di Romano Prodi, Giovanni Lorenzo Forcieri, riferisce pochi giorni dopo in Parlamento. Il nostro paese ha una legge, la 801, che disciplina l'attività dei servizi, ha una serie di direttive e compiti e non c'è nessuna possibilità che agenti del nostro servizio si siano resi responsabili di violazioni dei diritti umani, di soppressione della libertà delle persone, perché questo è espressamente vietato. Non può essere avvenuto con il placet dell'istituzione. La magistratura sta indagando su dei fatti singoli. Se questi fatti dovessero dimostrare il contrario, è evidente che si tratta di responsabilità di singoli che non coinvolgono l'istituzione, ma io starei attento anche a ipotizzare questa cosa. Siamo in una fase iniziale di un procedimento giudiziario, ci saranno delle verifiche, ci saranno dei chiarimenti di responsabilità, ma credo che l'istituzione in quanto tale è fuori da questa problematica. Nei giorni in cui CIA e SISMI organizzano il rapimento dell'imam di Milano, Franco Frattini è il ministro degli esteri del governo di Silvio Berlusconi. Ci sono due aspetti. Uno, la ovvia conferma delle numerose dichiarazioni ripetute del governo di allora sul fatto del non avere ovviamente avuto conoscenza della questione Abu Omar. L'altro aspetto è che evidentemente tutti dobbiamo rispettare le decisioni della magistratura, ma è profondamente sbagliato anticipare i giudizi. Bisogna aspettare con serenità che i processi si concludano. Quando vi saranno le sentenze definitive diremo la nostra opinione. Ognuno potrà dire la sua. È chiaro che l'anticipazione di un giudizio negativo di condanna in presenza di un ordine di custodia cautelare, che è già un atto particolarmente grave, costituisce una pericolosa violazione dello Stato di diritto, perché insomma lo Stato di diritto vuole che si faccia un processo, che gli accusati siano ascoltati, che il giudice decida, che ci sia un appello, un ricorso alla Corte Suprema, eccetera. Ecco, quindi la cautela in questo è assolutamente doppia. Il vicepresidente del COPACO, la Commissione di Controllo del Parlamento sui Servizi Segreti, Massimo Brutti, dice che le indagini dei magistrati devono accertare la verità, quale essa sia. Qui siamo di fronte ad un fatto. Una persona, un cittadino straniero, che era sottoposto a controlli, perché c'era un'indagine giudiziaria, c'era un'attività di polizia per controllarlo in quanto egli era sospetto, viene rapito, è portato fuori dall'Italia, in un paese nel quale viene torturato. Allora, questo è nell'ambito delle leggi italiane un reato. Non solo è un reato, ma contemporaneamente si sottrae alle autorità italiane una persona che era messa sotto controllo, seguita. C'era un'attività di polizia, naturalmente intermittente, non lo seguivano 24 ore su 24, se no non avrebbero potuto sequestrarlo altri, però era un'attività delle autorità italiane che tra l'altro poteva servire a individuare i suoi contatti, a tenere sotto controllo il gruppo, il centro al quale lui faceva capo, le strutture che frequentava, eccetera. Quindi è un reato e in base alle leggi dello Stato questo reato va perseguito, l'azione penale è obbligatoria, la magistratura deve svolgere il proprio compito, perché se ci fossero dei vuoti, e cioè se nell'ordinamento italiano vi fossero persone che sono sottratte alle leggi, lei capisce che per questa strada si va a finire verso la distruzione dello Stato di diritto. Invece noi dobbiamo combattere il terrorismo, ma dobbiamo combatterlo tenendo ferme le nostre leggi, perché per difendere le nostre leggi, la convivenza civile, che noi combattiamo contro il terrorismo. Ma secondo l'ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga, l'obiettivo dei magistrati milanesi non è accertare la verità, ma mettere sotto inchiesta il capo del SISMI Niccolò Pollari. Una cosa che gli apparati di sicurezza si aspettavano da lungo tempo. Allora, il dottor Spattaro di Magistratura Democratica è un noto anti-americano assatanato di protagonismo. Che loro arrestassero Mancini, questo era noto, ma il loro obiettivo non è Mancini. Il loro obiettivo è arrestare il generale Pollari e sfasciare il Sismi. Per l'europarlamentare dei DS Claudio Fava le cose però non sono andate come quanto descritte da Francesco Cossiga. Capire chi sapeva cosa. Pollari è stato invitato e cortesemente venuto a parlare davanti alla nostra commissione d'inchiesta e ha affermato di essere venuto a conoscenza del rapimento di Abu Omar in modo casuale molti giorni dopo. E allora ciò che io mi chiedo, o Pollari ha mentito perché sapeva o Pollari non sapeva, e allora c'è un pezzo di servizi che in questi anni ha tenuto un comportamento parallelo con connotazioni eversive. Carlo Bonini, Giuseppe D'Avanzo, entrambi di Repubblica, sono stati spiati, i loro spostamenti controllati in modo meticoloso, intercettati i loro telefoni. Un lavoro eseguito per settimane dagli uomini del Sismi, mentre i due giornalisti proseguivano le loro inchieste sul rapimento di Abu Omar. Carlo Bonini. Credo che chiunque può immaginare come ci si sente a sapere che, a essere informati che qualcuno ha controllato i tuoi movimenti o forse addirittura ha intercettato le tue comunicazioni. Credo che sia una cosa che nessuna persona, nessun cittadino, qualunque sia il suo mestiere, qualunque sia la sua razza, credo religioso, idea politica, no, abbia dubbi su come ci si sente. Il caso di Abu Omar coinvolge a quel punto anche il mondo dei giornalisti. Renato Farina, fonte Betulla, era libro paga del Sismi. Carlo Bonini, di Repubblica, a quel punto si dichiara sconvolto. In questi 3 anni con il mio collega noi abbiamo scritto per Repubblica più di un'inchiesta, abbiamo scritto un libro che si chiama Il mercato della paura, in cui segnalavamo l'esistenza di un problema dell'informazione, di qualità dell'informazione in questi ultimi 3 anni. Segnalavamo cioè la circostanza che di fronte al pericolo del terrorismo internazionale si era creato un connubio opaco tra apparati della sicurezza e in particolare tra l'intelligence politico-militare e il circuito della grande informazione, quindi delle grandi testate giornalistiche. Avevamo cioè intravisto e riteniamo del tempo di essere stati in grado di documentare senza dover, come dire, svelare nessun segreto che non fosse una lettura attenta dei giornali giorno dopo giorno, che la nostra intelligence militare era stata impegnata nel tempo in un'attività di intossicazione e disinformazione all'interno del paese. E alla fine di questa nostra storia restano i fatti, quelli accertati dai magistrati milanesi. Ora saranno i processi a stabilire le pene, le sanzioni per i responsabili del caso Abu Omar, ma una cosa ormai è certa. Le leggi italiane e internazionali vietano all'intelligence di rapire un cittadino in un altro Stato, sottraendogli così la libertà. Così stabiliscono le regole. Almeno 22 agenti della CIA risultano coinvolti nel rapimento dell'imam di Milano, Abu Omar. Nell'operazione commettono una lunga serie di errori. Il conducente di una delle vetture del comando si fa riprendere dalle telecamere dei vigili urbani mentre compie un'infrazione. Scatta la multa. La targa dell'auto è ben visibile nella fotografia. Alle 12.25 del 17 febbraio 2003, mentre Abu Omar viene caricato su un furgone, in via Guerzoni una donna egiziana è testimone oculare del rapimento. Agli investigatori fornisce luogo e ora esatta del blitz. Soprattutto ricorda un particolare. Il sequestratore comunica con un telefono cellulare. Tra aprile e maggio 2004 Abu Omar ottiene 20 giorni di libertà vigilata. Torna in famiglia ad Alessandria d'Egitto, chiama in Italia la moglie. Le confida di essere stato sequestrato da agenti americani. Le telefonate sono intercettate. La Digos apprende che Abu Omar è stato portato in una base militare statunitense a 5 ore da Milano. La distanza corrisponde al tragitto autostradale Milano-Aviano. A quel punto la polizia possiede gli elementi per incrociare il traffico in entrata e uscita dei telefonini. Le migliaia di cellulari attivi alle 12.25 in via Guerzoni vengono confrontati con gli apparecchi in funzione 5 ore dopo ad Aviano. Alcuni di loro sono in dotazione di agenti dei servizi segreti americani in trasferta in Italia. Così dicono i documenti. Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi. Infoline dbiacchessi@radio24.it.